24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. A me che fa tenerezza Berlusconi, perché è un po' in confusione adesso, no? Oggi doveva presentare un videomessaggio, poi però è uscito quell'altro, quella della nave da raddrizzare, e allora ha rimandato. Ecco, diciamo che in questi giorni non si fa altro che parlare di due video. Uno è il video di un relitto che cerca di stare a galla con tanta gente intorno che si chiede ce la fa, non ce la fa. L'altro è il video della Concordia. Vabbè, questo è Maurizio Crozza, buongiorno cari italiani, cari italiane, alle 6.35 minuti, la nostra Miriam Lucchetti è lì in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è in regia col suo mitico bombardino a fianco, al terzo, al quarto bombardino peraltro, alle 6.35 minuti ovviamente. E allora, questo è 24 mattino, siamo con voi fino alle 9 e siamo pronti subito ad aprire il nostro Parlamento. Che no, sì, ah, ecco appunto. Bombardino, il caffè volentieri a tutti quanti. Vabbè. Caffè di Nicole Minetti, evviva, evviva, e abbiamo barman generosi. Tutto tace. E va. Io non lo voglio, no! Il caffè della Minetti. Porca. Tu continui, continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Strozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Se non mi sono strozzato finora. Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno. Propongo su Twitter, per favore, la ricetta del bombardino. Ecco. La propongo. No. Ma tu non sai questa cosa, che abbiamo il più grande contribuente della scuola pubblica italiana con le accise sugli alcolici, il nostro alpino Peter Bescapella è il primo contribuente. Cioè, se i vostri figli hanno carta igienica, gessetti, lavagne, favore, è perché sono le buongiorno tasse a tutti, buongiorno. Le accise sugli alcolici che Peter Bescapè paga con i suoi bombardini. Saluto il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno e grazie all'alpino a nome dei miei figli. Giustamente. I figli di Luca Dini vanno a scuola grazie ai bombardini di Peter Bescapè. Allora, Paola Saluzzi, anche tu vuoi fare la tua metafora sulla Concordia raddrizzata come il paese? No, voglio soltanto dire a proposito di Concordia che sono fiera, orgogliosa degli italiani. Come dire, stendo un tricolore lungo 3 metri a favore di chi ha lavorato in questi 20 mesi, grande Franco Gabrielli, grandissima protezione civile. Va bene, abbiamo fatto lo spot. Ale. Cioè, sì, lo volevo dire alla faccia di quei gufi no, che stavano lì e dicevano ha detto che non c'è un piano B, qualcosa potrebbe sempre succedere, me ne sono trovati davanti. Sì, siamo un po' così. I gufazzi. No. L'ho incontrata anch'io, gente al bar al mattino che beveva il cappuccio, che diceva la parabucla o non la parabucla, la parabucla o non la parabucla, e poi dopo c'è proprio voglio che potrebbe andargli male. È andata bene. Allora, carissimi, io voglio sottoporvi una notizia che magari sono di quelle notizie di taglio, come si suol dire, così non parliamo delle solite robe subito della politica, chi se ne frega. Ed è questa, Luca, la storia drammatica ma che porta con sé anche una straordinaria scoperta della mamma di questa dottoressa, no? Leonora Cantamessa, che è stata travolta a Bergamo, che ha scritto una bellissima lettera sul Corriere. Ieri si è scoperto che in quel giorno di quella tragedia, come tutte le notizie, ci sono dei risvolti positivi e delle cose che mi hanno colpito. Un carabiniere è stato beccato in quel giorno lì, durante l'incidente, da una telecamera a prelevare il bancomat di una persona che era rimasta ferita e andare a giocarsi dei soldi alla slot machine, uno di questi posti, no? Dove... Allora, io mi è venuto l'istinto di dire boccaccia mia, stati zitta. Su Twitter ho messo questo, quando leggo queste cose, ma com'è possibile? Cioè, Luca, si è parlato tanto anche da queste storie che ci sono dei risvolti positivi, abbiamo scoperto la straordinaria forza di questa mamma che ha perduto una figlia e ha scritto delle cose molto belle, intense, sul Corriere della Sera. E poi uno legge e il giorno dopo, cioè sembra quasi che non ci sia mai speranza di una cosa buona, che subito si deve essere travolti da una notizia negativa. Ma com'è sta cosa? Ma è la natura umana, penso, nel senso che ci sono persone, credo per fortuna siano, secondo me, la maggioranza, o perlomeno la maggior parte di quelli che fanno qualcosa in una situazione come quella. Ci sarà anche chi non fa niente, semplicemente magari scioccato sta guardando. C'è chi aiuta e poi c'è chi se ne approfitta, ci sono gli sciacalli. io continuo a pensare, nel mio inguaribile ottimismo, che gli sciacalli siano una tristissima minoranza. No, infatti, guarda, tu hai usato questa parola, Paola Saluzzi, oggi il giornale ci fa una pagina, lo sciacallo e l'angelo, le anime delle due Italie. Poi è brutto mettere così in due fotografie, allora, due persone. Non è l'Italia. Non è l'Italia, l'uomo, esatto. È l'uomo così, forse. È il mondo. Cioè, c'è gente che quando, chiedo scusa, ma insomma, ricordo un episodio, il terremoto dell'80, c'era gente che scavava a mani nude per salvare, c'era gente che andava al cimitero per togliere i denti d'oro, no? Allora, ricordiamo anche il più recente, anche... No, però... certo, ma anche il più recente terremoto, ricordiamo che c'era chi rideva, insomma, è diventata storia al telefono mentre all'Aquila, no? Certo. Lì entriamo ancora in un altro capitolo. Perché vedeva gli affari, no? Che si profilava. No, ancora più mostruoso, non so come dire, lo considero altrettanto, se non un punto in più. Mostruoso. Credo che ci sia dietro anche una forma di malattia in una persona che rubi un bancomat per andarselo a giocare alle slot. Sì, poi per carità, non voglio fare quello l'anima verginella, ma è pure un carabiniere, no, cioè un uomo. Invece nel giorno, tra pochi giorni è l'anniversario di Salvo D'Acquisto, e Salvo D'Acquisto non è stato il primo e non è stato l'ultimo carabiniere a sacrificarsi per gli altri e a vestire una divisa in maniera degnissima. No, stai dicendo bene, per di più è anche una persona che vestiva una divisa, certo, che deve corrispondere a una sicurezza per chi la guarda, no? Per chi la vede. Però la mia sensazione nel leggere queste cose, non so se Luca Dini sei d'accordo, è che a volte anche dalle cose negative si riesce a trovare in questa Italia un po' affannosa delle cose, dei lati positivi, e poi subito track, uno quando pensa di dire beh, è un qualcosa che dà un segnale di speranza, sembra quasi, no, una piccola mannaia che ti colpisce ogni volta, a dire beh, ma guarda che non è proprio così, c'è sempre il lato negativo. Sì, però insomma questa cosa non macchia, secondo me, la storia, la vera storia, che è un'altra. Secondo me, insomma, quella lettera a me rimarrà molto più impressa di questa storia misera, che spero finisca con una severissima punizione. Certo, il carabiniere è già stato sospeso e messo in congedo. Allora, io dico sempre che giro con due urini in tasca, li metto a disposizione di lor signori del governo. Ma pare non basti, non si trova il miliardo necessario per scongiurare l'aumento dell'IVA che dovrebbe scattare a questo punto a inizio ottobre. Vai a vedere che la vicenda dell'IMU è stata una... Paola Saluzzi, come chiama? Mi verrebbe un termine, ma non è molto radiofonico. Una fregatura? Una fregatura? I nodi adesso vengono al pettine. Ora... I nodi o i lodi? I nodi. C'era una tendenza a modificare la parola. Sì, sì. E ora bisogna trovarli. Adesso bisogna trovarli. Non si trovano, infatti. Questo miliardo non si trova. Bisogna trovarli. Ho capito. Non so, che uno dice brava cretina, trovali. No, non spetta a me. E non li trovano, infatti. Anzi, a meno se qualcuno pensa, come ho letto ieri, di aumentare l'accisa sulla benzina, ancora la stangata sui carburanti. Io l'ho detto ieri, non voglio pensare che un governo si voglia così del male da poter pensare di aumentare ancora la benzina. O no, Luca Dini, potrebbero fare così. Aumentiamo la benzina e troviamo un miliardo. D'altra parte, non a caso c'è stato tutto il rinvio e il rinvio, perché speravano che da qualche parte, non so, sbucasse fuori un forziere pieno di fantastiliardi. Io vorrei sapere da quelli come Brunetta, per esempio, dove sono questi soldi, perché si è fatto altro che dire che questa cosa era assolutamente necessaria, però insomma la soluzione mi pare che non ci sia. Hai citato Brunetta, e allora te lo faccio sentire. Brunetta, che però parla di altro, no? Questa cosa del voto segreto che potrebbe arrivare su Berlusconi, con quelli del PD che pensano alle strategie per far vedere, quando si voterà in aula, che loro votano come il partito dice di dover votare. Ma lei pensi un grande partito, che fu il partito di Gramsci e di Togliatti, che si fa le fotine con i ditini, con le manine, mentre fa il votino, ma su via, che tristezza, che squallore. Paola Saluzzi, devo dire che quando parla però le battute gli vengono bene, eh? Battute, no, no, nel senso, lei, no, è assolutamente efficace, ma insomma, no, le fotine no. No, i ditini, beh, alzati, le palline di carta. Le palline di carta, certo. Beh, mancava il cancellino ieri, poi c'era tutto. Chi ricorda il cancellino, il mitico cancellino? E come no? Tutto, cioè, arrotolato come, ecco, come la sirena. No, sì. E che quando lo tiravi, pieno di gesso, a tirarlo, lasciava dei timbri sulla faccia, sui cappotti. Per favore, no. Eppure sarà così, no. Ci sarà il segretario d'aula del PDL, ricordo che girerà per i banchi a controllare che tutti votino, Luca Dini, come quando copiavi il compito di latino, di La Verità, la versione. D'altra parte, Brunetta si dovrebbe ricordare che era sostenitore di un governo, non mi ricordo più se era anche esponente di quel governo, che nel dicembre del 2010 si salvò grazie a qualcuno che non so se abbia fatto la fotina, ma c'era qualcuno che insomma doveva votare in un modo e votò in un altro. Ah sì sì sì, beh, sì. Beh, certo che faceva parte del governo, quello prima del governo Monti era il ministro, no? La funzione pubblica, ecco. E vabbè, insomma, come finirà? Ecco, stasera c'è ve lo chiedo dopo il traffico e la segreteria telefonica, come finirà la vicenda Berlusconi, questo è ogni settimana bisogna aggiornare la telenovela e mi dovete dire anche il pronostico di sta settimana, tanto quello della scorsa settimana me lo sono dimenticato, per cui dite quello che volete. 24 mattino. Buonasera, sono Arturo Romagnolo Puro, dobbiamo fare la rivoluzione culturale e partiamo dall'immondizia. È inutile, in tutti i fossi, nelle strade, nelle aree di sosta, dappertutto, c'è immondizia dappertutto. Un appello agli italiani, siate civili, buttate l'immondizia nel bidone, date retta, è un grande risparmio di spesa. L'immondizia, partiamo dall'immondizia. Insomma, Arturo Romagnolo Puro, ciao. Andate a fanculo tutti quanti, ciao. Tutti questi politici che stanno rovinando l'Italia, sarebbe da portarli a Piazza Loreto, a Milano, come è stato nel 1945. Gli italiani non ne possono più, non so quando che si muovono, forse ci tengono più alla macchina. Per questi politici, Piazza Loreto, Milano. Ciao. Ma in quanto ad ampollosità, D'Alema non è di sicuro secondo ad Amato. Buongiorno Mila, senti. Volevo solo dirti, quei due signori, due marò, che hanno fatto il tiro al piccione a quei poveri pescatori, restano là. In India non è l'Italia dove la gente ammazza e dopo tre giorni se ne sono già fuori. Hai capito, Milan, te e i tuoi amici là? Milan, sono incazzato come una iena. Ho 34 anni, ho una laurea e il meglio che questo cazzo di paese mi offre è un lavoro in un centro commerciale, con tutto il rispetto ovviamente per chi ci lavora, a 500 euro al mese per un quasi full time. E mi devo sentire tutti i giorni questa roba di Berlusconi, io sono anni che sto aspettando che qualcuno, qualcosa cambi l'Italia, non ne posso più, ma se ne vada via lui, se ne vadano via tutti i cortigiani, brucino all'inferno, lasciano che siano i giovani, lasciano che siano le persone più competenti. Basta, sto sragionando, però basta, non ne posso più, non ne posso più. Vabbè, sono molti che non ne possono più, come questo nostro ascoltatore. Noi siamo con Paola Saluzzi, oggi che farai a Sky TG24 pomeriggio alle 15? Politica. Politica, arriva il video, politica, arriva politica. Il video. Oggi abbiamo tanto da dire sulla politica. Arriva il video, arriva, pare ne abbia fatta la terza versione, cioè però ci sono tre video, non se ne è visto manco mezzo, ma ce ne sono già tre. Quindi quando li rilascerà tutti sarà una vagonata di nastri che invaderanno. Dare l'accuratezza, la correzione è giusta, arriverà. Però, arriverà. Di che segno zodiacale sei, Paola Saluzzi? Io sono un disastro meraviglioso, sono gemelli. Cuspide Toro, ascendente Ariete. Tu direttore, Luca? Guarda, io sono... Toro, cuspide Ariete, ascendente Gemelli, Paola. Vabbè, insomma, no, non è che volevo fare agenzia matrimoniale con Marta Flavi, no, è che io sono sagittario e quando ho scoperto oggi da Vanity Fair che anche Dudu è sagittario, ho detto oddio no, però ho scoperto, ci sono le foto inedite di Dudu, Luca Dini. Dudu, tortolino amoroso. Il cagnolino della Pascale di Berlusconi, che quando ho scoperto che gli lascia il permesso di fare i bisogni dove, come, dove vuole nella casa, sono rimasto un po'. Dudu però è nato il 16 dicembre, io il 5, quindi sono salvo. No, in realtà mi ha colpito molto oggi la copertina di Vanity Fair. Luca, avete un'inchiesta... insomma, che rischia di riaprire un caso dal punto di vista non delle vicende giudiziarie, ma su Lady Diana, che avete in copertina. Che inchiesta è? Cioè, avete scoperto che cosa? Ma è un'inchiesta fatta da una giornalista americana che ricostruisce, insomma, quella che gli ultimi anni di Diana, in particolare questa storia d'amore che non era con Dodi Al-Fayed, ma con un medico pakistano. In parte questo già si sapeva, ma quello che forse non si sapeva è che Diana in realtà non aveva nessuna intenzione di proseguire la storia con Dodi Al-Fayed, che in realtà lo usava per costringere questo medico pakistano naturalizzato inglese a uscire allo scoperto a sposarla, cosa che lui aveva paura di fare. Cioè, in realtà il vero amore degli ultimi anni della sua vita era un altro, ecco, questo medico pakistano. Beh, insomma, un'inchiesta, non so. Tu che pensi di Diana? Paola Saluzzi, ti ha colpito come figura? Ti è rimasto... Mi ha colpito come figura, impossibile non collocarla tra le figure che restano e resteranno. Devo dire che negli anni, rivalutandola e nel tempo, forse ha agito veramente senza un buon consigliere. Non ha avuto una buona sorella o un buon fratello accanto che le dicesse: ma che stai facendo? Ecco, perché devo dire che ha sciupato una grande possibilità, che era quella di rimanere felicemente o infelicemente madre dei propri figli, per rincorrere una felicità propria, viceversa, che a un certo punto, quando assumi un determinato ruolo, evidentemente non ti è concessa, e quindi di fare la regina. È un po' la storia all'ombra di tutte le corone. Trottolino amoroso è proprio il titolo, eccolo qui, Dudu. Dudu, le foto di Dudu su Vanity Fair. Invece la mia gatta Caterina è dei gemelli. Sì, e non va su Vanity Fair, questa è un'ingiustizia. Si rimedierà, non lo so. Rifacciamo tutto quanto, una mappa anche insomma. Fai fare qualcosa alla tua gatta, qualcosa di strano. Mettila in braccio a Berlusconi, invita Berlusconi e mettigliela in braccio. Già basta la mattina che mi sveglia alle 5:30 che vuole giocare con la palletta di carta, per carità. Metti poi che lo graffia, finisci in tutte i video. Buon lavoro! Entri nella storia, nella storia. Va bene, vi saluto, grazie Paola Saluzzi, grazie a Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Ci ritroviamo la prossima settimana, se vorrete. È tempo di giornale radio e poi la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi parleremo di politica. È atteso il video di Berlusconi, arriva, non arriva questo video, chi lo sa? Insomma, siamo al terzo video secondo i giornali, non se ne è visto neanche mezzo fotogramma finora, ma ci sarebbero già tre versioni. Oggi forse ve ne verrà rilasciata una. Staremo a vedere. Intanto la giunta per la decadenza, per l'immunità, deciderà oggi, primo voto, ne parleremo alle 8:15, avremo tre esponenti politici, Stefania Pezzopane e Enrico Buemi della giunta, e poi il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Questo più avanti, ed ora i giornali. Questo mercoledì 18 settembre, intanto i titoli. L'economia sul Sole 24 Ore in prima pagina, il titolo è Spread, l'Italia torna avanti, mentre il Corriere della Sera ha un'economia diversa, verso l'aumento dell'IVA.

sapete che c'è questa moda, peraltro una moda idiota, su questo siamo d'accordo, di fotografare i piatti quando si va al ristorante o i menù e mandare in giro alle persone, agli amici, e ci sono gli chef che si lamentano. Basta questa moda! Rivolta iniziata negli USA, ci sono ristoranti con scritto fuori no food photography e gli chef che dicono è vietato fotografare le pietanze che vi portiamo o il menù per mandarlo agli amici, e il giornale dedica tre quarti di pagina a questa notizia. Come al solito, chi se ne fotte? Ricordatevi, cari amici del giornale, la carta costa. E ora il giornale radio. Ventiquattro mattino. Siamo qui alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, come dico da vari giorni, non pensiate che oggi sia una giornata decisiva per la telenovela della vicenda Berlusconi, giunta alla puntata davvero 5.932. Ma certo oggi sono giorni, è un giorno importante. Intanto ci sarà un primo voto alla giunta che deve decidere sulla decadenza da senatore di Berlusconi dopo la condanna in via definitiva. Dovrebbe essere un voto per la decadenza, un primo sì, se si rispettano le proporzioni dei partiti e in base all'appartenenza dei partiti. Tra una decina di giorni poi ci sarà, secondo uno schema che viene descritto anche oggi dai giornali, un altro voto, quello definitivo della giunta. Poi ci sarà l'aula, il Senato, che si esprimerà quasi certamente con voto segreto, a meno che non vengano cambiati i regolamenti da qui alla data del voto, per la effettiva decisione sulla decadenza senatore di Silvio Berlusconi. Questa è un po' la strategia, questo nei giorni in cui è arrivata questa condanna civile in via definitiva. Berlusconi, la Fininvest per la verità, deve risarcire con 494 milioni la CIR di De Benedetti, questo nei giorni in cui aleggia la possibilità che ci sia un videomessaggio di Berlusconi annunciato per ieri, rinviata oggi, in tre versioni diverse secondo i giornali, limato corretto, ripeto, finora non si è visto neanche un fotogramma, ma pare che ci siano già tre versioni diverse, da quella più edulcorata a quella un po' più dura sulla tenuta di governo. Che ne pensate della situazione politica? 800 024 0024 è il numero per intervenire, cari ascoltatori. Intanto voglio salutare il senatore Enrico Buemi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Lei fa parte della giunta. Allora, intanto ci spieghi questa cosa che oggi leggiamo sui giornali. L'hanno già definita il lodo Buemi. Dopo il lodo Violante, il lodo Buemi. Cioè, lei, secondo i giornali, ha proposto di, come dire, con una procedura tecnica che ora ci spiegherà, però sia il meno tecnico possibile, sì, per cortesia, di rinviare, di aspettare un attimo, di non avere questa fretta a decidere sul voto oggi. Che vuol dire, senatore? Ma guarda, intanto non vorrei che fosse chiamato lodo Buemi, ma vorrei che fosse chiamata Operazione Concordia, nel senso che alla base della mia proposta c'è la ricerca di una convergenza da parte di tutti i colleghi della Giunta, in modo tale che questa questione, che è una questione particolarmente delicata, non fosse affrontata da strumentalizzazione di parte. La proposta è molto semplice, la sentenza c'è, noi non abbiamo il compito né di verificare se è giusta o se è sbagliata e neanche di modificarla, noi dobbiamo semplicemente applicarla. C'è un punto, la Corte d'Appello di Milano e la Cassazione successivamente, la Corte d'Appello aveva previsto 5 anni di interdizione ai pubblici uffici, la Corte di Cassazione ha detto no, la interdizione c'è, però non può essere di 5 anni, dovete rivedere da 1 a 3 anni. Sì. Quindi nella sostanza c'è la condanna detentiva da 4 anni con la riduzione a 1 anno per effetto dell'indulto, e c'è l'interdizione dei pubblici uffici che sarà da 1 a 3 anni, però sulla quantità dell'interdizione, quantità di tempo dell'interdizione, deve pronunciarsi successivamente, sì, la Corte d'Appello, anche se a dita la Corte di Cassazione. Io dico, procediamo immediatamente alla verifica e decidiamo la decadenza del senatore Berlusconi, perché gli effetti sono evidenti, c'è l'interdizione, però l'interdizione non ha il quantum, allora attendiamo renderla efficace, che decidano quanto deve essere lunga questa interdizione. Però la decisione viene presa adesso, oggi. Ho capito, mi scusi. Cioè, lei dice viene presa la decisione, però attendiamo di capire quanto la Corte d'Appello darà di interdizione. No, non c'è bisogno di capire. È un, diciamo, un completamento giuridico, perché l'interdizione c'è già. Dobbiamo sapere quanto. Allora, il Comune di Milano, che deve essere poi l'organo finale che esclude il collega Berlusconi dalle liste elettorali, sì, deve comunicare quanto la Corte di Cassazione avrà deciso, se adita, ripeto, pure la Corte di Appello, quanto tempo deve stare fuori dalle liste elettorali. Sì, ecco, sì. Manca quel piccolo requisito, ma tutti gli altri elementi ci sono. Allora noi siamo in condizione di decidere oggi, sì, e quindi la decisione è ora per allora, o oggi dichiariamo che fra un mese, due mesi e mezzo, quando sarà, il collega Berlusconi decadrà, quindi, perché si produrranno tutti gli effetti. Quindi non è che lei, senatore, dice sospendiamo tutto, no, e attendiamo che la Corte d'Appello decida quanto deve essere, no, l'interdizione. No, no, in effetti io propongo di votare subito questo l'equivoco mediatico che si è creato, però ecco, mi faccio dire solo una questione. C'è, sì, un'obiezione da parte di alcuni colleghi di carattere tecnico. Io la respingo nella maniera più assoluta. In questi 50 anni di Repubblica e di vigenza della Giunta è successo di tutto all'interno delle Giunte. Se ne sono fregati dei regolamenti, hanno escluso, inserito colleghi a seconda delle maggioranze politiche, trasformando la Giunta in un mercato delle vacche. Questa è una proposta di buon senso. Alcuni colleghi adesso, oggi, si nascondono dietro le norme. Però, senatore Buemi, lei quando inizia ha detto l'operazione Concordia, si riferiva alla Concordia, nel senso... Alla Concordia tra noi, nel paese, alla Concordia no, politica. Alla Concordia tra di noi, sa, c'è molto riferimento alla Concordia, un altro tipo ma di Concordia. Ma guardi, questo nostro paese deve essere messo in, diciamo, in rotta, la nostra nave, l'Italia, deve poter navigare. Non possiamo continuamente essere bloccati dalle vicende Berlusconi, dell'uno e dell'altro, ma ho capito. E chi è contro e chi è a favore. Sì. Sono 20 anni che siamo in questa situazione e l'Italia non va avanti, non va in nessuna direzione. Questo certamente, però, senatore Buemi, gli italiani si chiedono anche, io ironicamente la chiamo telenovela Giunta, la puntata numero 5.900, ho capito, ma chi la deve risolvere questa telenovela se non voi, lei e i suoi colleghi? Ma guardi, io vorrei, cioè, vista con gli occhi del cittadino è un qualcosa di talmente paradossale. Per carità, ognuno deve potersi difendere, eccetera, c'è stato un processo, c'è stata una sentenza e adesso non si capisce. Ma guardi, in che secchia siamo in questo mese di attività della Giunta. Ho cercato di dare all'azione della Giunta, non ci sono riuscito purtroppo, diciamo, un'azione imparziale, prendere in considerazione tutti gli elementi, dare lo spazio per la difesa, anche se ha ragione lei, ci sono già stati tre livelli di giudizio, sì, però siccome la legge prevede questo ulteriore passaggio per quanto riguarda le situazioni dei parlamentari all'interno dell'organo di appartenenza, noi dobbiamo svolgere fino in fondo questa attività, rispettare le regole, non avere frenesie, ma non avere né atteggiamenti di connivenza né anche di estremismo punitivo, perché non mi pare che si addica al nostro comportamento. Le chiedo questo, senatore, quando arriverà il voto in aula, secondo lei è giusto che sia un voto segreto, perché c'è anche il dibattito su questo? Guardi, lo statuto albertino prevedeva il voto segreto, eravamo 150 anni fa, prevedeva il voto segreto non soltanto per le questioni personali, ma anche nell'approvazione finale delle leggi. Perché? Perché c'è la necessità di dare il massimo dell'autonomia di giudizio per quanto riguarda i parlamentari che decidono su cose fondamentali, su questioni fondamentali. Io ritengo che in uno Stato liberale, nel momento in cui ci sia il dovere di esprimersi su una questione personale che riguarda delle persone, ci debba essere la possibilità di esprimersi con voto segreto. Il nostro regolamento prevede. Il regolamento è quello. Se lo richiedono almeno 20 parlamentari, ci debba essere voto segreto. Sì, poi credo sulle questioni personali, credo che sia proprio segreto, anche se non lo richiedono in 20. Ma comunque 20 ci saranno. Però, senatore, siccome ci ha raggiunto, la voglio salutare anche la senatrice Stefania Pezzopane, che è vicepresidente della Giunta del Partito Democratico. Buongiorno, senatrice. Eccoci qua. Buongiorno a voi. Intanto discutevamo, ecco, il senatore Buemi, diciamo, prendeva la distanza da quello che è definito mediaticamente il lodo Buemi, dice non c'è nessun lodo, non c'è nessuna dilazione, si può votare subito, quindi questa sera, ma chiede insomma che questo ricalcolo che deve fare la Corte d'Appello sui tempi tecnici per l'interdizione potremmo decidere subito per quando poi ci sarà il calcolo giusto. Al di là di questo le chiedo, c'è stata ieri anche un'iniziativa di due avvocati che hanno chiesto l'annullamento della sentenza definitiva in Cassazione per un vizio di composizione del Collegio della Cassazione. Cose tecniche, per carità, ma senatrice, questo può inficiare, può dover essere preso in considerazione da voi oggi? No, assolutamente, un esposto di quella natura per i lavori della Giunta per le elezioni è del tutto irrilevante, perché si rivolge al Presidente della Corte di Cassazione, peraltro, come ribadiscono gli avvocati che sottoscrivono l'esposto, non hanno nemmeno il vincolo di mandato, quindi lo fanno a titolo personale. Noi ci muoviamo esclusivamente perché c'è una sentenza di terzo grado irrevocabile e quindi non possiamo far altro che ritenere quello l'atto fondamentale su cui la Giunta lavora. Tutto il resto, diciamo, non è rilevante. Immaginiamoci durante una fase procedimentale che un cittadino chieda a un altro organismo la sospensione. Non sta nelle cose. E quindi procederemo, perché è così che dobbiamo fare. Quindi stasera ci sarà il primo voto sulla cosiddetta relazione Augello, il primo voto ufficiale, non quello definitivo della Giunta. Sì, lei conferma. Questa mattina alle 9 ci sarà la replica del relatore, sì. Poi interrompiamo perché ci sono i lavori d'aula, e questa sera alle 20:30 ci saranno le dichiarazioni di voto e poi il voto. Che ne pensa di quanto dicono alcuni membri del Popolo della Libertà, parlano di accelerazione, di voglia di eliminare giudiziariamente Silvio Berlusconi? Che cosa sono? Sono dichiarazioni politiche di prassi oppure hanno un fondamento di verità, cioè questa fretta da parte della Giunta? Ma nessuna fretta. Ribadisco che nell'opinione pubblica, peraltro, questi tempi sono stati visti come tempi elefantiaci. Cerchiamo di essere in sintonia con l'opinione pubblica e non con la brutta politica. E quando c'è stata la sentenza il primo di agosto, e qualche giorno dopo la Giunta si è riunita e ha stabilito dei tempi molto morbidi, dando l'opportunità al senatore Berlusconi di presentare, come era suo diritto ovviamente, delle memorie fino al 28 di agosto, poi dando al relatore altri 10 giorni fino al 9 agosto per presentare la relazione. Nonostante la tempistica già abbastanza estesa e si sono ulteriormente allungati i tempi, la Giunta per le elezioni non è un organismo che può dare un ulteriore grado di giudizio. Dobbiamo prendere atto della sentenza, argomentare ovviamente le nostre prese di posizione, e non condivido affatto le prese di posizione di quegli esponenti del centrodestra, che peraltro hanno usato parole grosse, sì, sgradevolissime, plotone di esecuzione, cappio al collo. Va sempre ricordato che Silvio Berlusconi è stato condannato in terzo grado di giudizio per un reato gravissimo. Certo. Però le chiedo, senatrice, poi ci sarà la questione, lo chiedo anche a lei, senatore Buemi, dice il regolamento parla chiaro sul voto che poi arriverà all'Aula, l'Aula del Senato, certo, alla fine di questo percorso dovrà pronunciarsi in maniera definitiva. Certo. Il voto segreto è quello che prevede il regolamento, tutto bene così, ed è giusto secondo lei che sia segreto? Io mi piacerebbe francamente molto votare palesemente, perché questa è una vicenda particolare, speciale, però è anche vero che se siamo per il rispetto delle regole dobbiamo esserlo sempre, quindi se sono per il rispetto delle regole della legge applicando la sentenza e la legge Severino, lo sono altrettanto per i regolamenti del Senato, che ad oggi prevedono che su richiesta di 20 senatori si possa applicare il voto segreto. E questi ci saranno sicuramente. Probabilmente ci saranno, il mio auspicio è che non ci siano, ma se ci sarà questa richiesta sulle questioni personali, va rispettata. In qualche modo va rispettata. E questa storia del ditino, lei cosa farà? Alzerà il ditino anche lei? Farà vedere che vota con la pallina di carta? Una roba indescrivibile. Sì, abbastanza allucinante, devo dire, quando ho letto quell'articolo. Ho io penso che nessuno avrà dubbio su come voterò io. No, questo non lo mettiamo in dubbio, però sa, è la storia dei franchi tiratori, è la storia dell'Italia anche. Sì, la storia dell'Italia purtroppo è stata anche la storia recente del mio partito, con quel brutto scherzo sulla vicenda Prodi, quindi c'è nel nostro elettorato, in particolare l'elettorato di centrosinistra, un sospetto, una paura, e che dobbiamo cercare di fugare questa sera con il voto e poi nei giorni prossimi anche con, insomma, con qualche mossa si politica. È capito e si è intuito che lei certamente voterà ed è per la decadenza di Silvio Berlusconi. E sono per la legge, non ce l'ho con Berlusconi. No, chiaro, ma questo infatti io non facevo un passaggio successivo, però lo chiedo anche al senatore Buemi, lei si è fatto un'idea, senatore, ci può anticipare come vota? Guardi, mi piace dire prima che io ritengo assolutamente inaccettabile l'idea che si possa modificare il regolamento a partita in corso. È una questione inaudita. Beh, però i regolamenti si possono cambiare, ci sarà una procedura. I regolamenti si possono cambiare, ma non in contingenza, in funzione di una questione specifica. Perché la partita è iniziata e quindi noi dobbiamo portare a termine questa procedura senza modificare i regolamenti, a parte il principio liberale di cui parlavo prima. Ma perché, mi scusi senatore, adesso al di là, il regolamento si potrà cambiare in qualsiasi momento, ci sarà una procedura per cambiarlo. Sì, ma è evidente che coloro che sono dall'altra parte e che subiscono le nostre decisioni potranno pensare con tutta tranquillità che la modifica è stata fatta contro di loro. Sulla questione poi del ditino o non ditino, siamo al ridicolo. Siamo al ridicolo. Un pochino sì, no, questo un pochino sì. Però non è una delle poche pagine ridicole che la politica italiana dubbio, ci propone. Non c'è dubbio, le pagine più inenarrabili sono i comportamenti politici della Giunta. Io ieri nel mio intervento l'ho sostenuto con forza. E anche il mio voto, lo dico con estrema chiarezza, il mio voto sarà conseguente al fatto che la Giunta è un organo politico. E quindi? Perché i comportamenti non dipendono dalle situazioni di fatto soltanto, ma dipendono dalle convenienze e dalle opportunità. Però senatore, quindi, cioè, vada oltre, mi dica, quindi come voterà in conseguenza? Quindi io nella mia dichiarazione di voto sosterrò la inutilità della Giunta, perché mai la Giunta ha votato contro gli interessi delle maggioranze diciamo del momento, e quindi da questo punto di vista, se non cambiano i comportamenti di coloro che sono all'interno della Giunta, la Giunta è un orpello inutile. La Giunta avrebbe dovuto poter esaminare queste questioni solo con l'apporto della documentazione, degli atti senatore, del contributo delle coscienze. E quindi, essendo inutile, a parte che lei ne fa parte... Io confermerò quello che ho già detto, io sono per la decadenza, sono per votare la decadenza, sono per dargli immediata attuazione, conseguentemente lei capirà qual è il mio atteggiamento. Voterà sì, però è inutile, quindi si dimetterà dalla Giunta, poi uscirà dalla Giunta. No, guardi, ecco un'altra particolarità che nessuno conosce. Quando si è nominati nella Giunta non ci si può sottrarre, non ci si può dimettere. Quindi, perché questo fa parte dei comportamenti, delle dinamiche, degli organi collegiali di giurisdizione. Però lei la trova inutile, però voterà per la decadenza di Berlusconi. Basta leggersi diciamo gli atti di 50 anni di Repubblica per capire che è inutile. Però uno dice, se è inutile, non so, mi astengo, non voto. No, invece lei vota. Guardi, sento il senso della responsabilità e dell'appartenenza, proprio perché sento questa appartenenza e sento questa inutilità, io mi allineerò nel mio comportamento a quello che io ritengo essere la mia area politica. Va bene, allora io per il momento vi ringrazio, anche perché tra poco vi libero, ci sono i lavori della Giunta appunto, grazie a Stefania Pezzopane del Partito Democratico, senatrice e vicepresidente della Giunta, grazie anche al senatore Enrico Buemi, andiamo qualche minuto in pubblicità, poi ci sono gli ascoltatori 800 24 00 24, poi sentiremo invece la versione di chi, in questo caso il senatore Nicola Morra, vale a dire il capogruppo del Movimento 5 Stelle, si batte fino all'ultimo perché il voto alla fine di tutta questa procedura al Senato sia un voto palese e non invece un voto segreto come si profila. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:41 minuti. Allora, cari ascoltatori, che ne pensate di tutta questa telenovela politica? Voglio sentire il vostro parere. Andrea dalla provincia di Treviso. Buongiorno, Andrea. Buongiorno Milan, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e complimenti per la trasmissione. Dica. Io sono stato storicamente un elettore di centrodestra, non sono giurista, ma ritengo che appunto questo voto dovrebbe rappresentare più principi giuridici che politici da parte della Giunta. Secondo, penso che tutto sommato non cambi granché per il presidente Berlusconi, e che lui potrà, se riterrà ovviamente opportuno, continuare a fare il leader del suo partito esternamente dal Parlamento. Lei dice, certo, però sa qual è il timore Andrea, a meno che dall'entourage di Berlusconi, leggendo in retroscena, che senza la copertura diciamo dell'immunità anche parlamentare ci possano essere anche altre inchieste, ci sia la possibilità che si scatenino le procure, uso una frase che viene utilizzata dal Popolo della Libertà, questo è il timore. Cioè, più di così, effettivamente. Sì, lei dice più di così. Probabilmente c'è un certo accanimento, però voglio dire, anche dall'altra parte c'è stato, voglio dire, una lotta squilibrata tra poteri forti da entrambe le parti. In ogni caso, volevo chiudere con questo pensiero dicendo: se proprio Berlusconi dovesse essere giudicato per qualcosa prioritariamente, io lo giudicherei non tanto per quello che ha fatto o per quello che è stato, per cui è stato condannato in via definitiva, quanto piuttosto per quello che non ha fatto i 20 anni, in 20 anni di governo. Vabbè, ma quello sa, Andrea, è un giudizio politico. Il giudizio politico è una cosa, le sentenze giudiziarie sono altre. Grazie comunque, Andrea, da Treviso, dalla provincia di Treviso. Vorrei andare a Padova da Daniele. Buongiorno, Daniele. Buongiorno. Io ho ascoltato un po' il dibattito, ma sono convinto, io sono un avvocato e sono anche un elettore di centrodestra, sono profondamente convinto che la giustizia sia in crisi e vada riformata, però le sentenze si rispettano, quindi sostanzialmente non c'è, siamo in un vicolo cieco, cioè Berlusconi in questo momento è all'angolo, cioè non può uscire diversamente se non dalla decadenza. Quindi la decadenza è un fatto automatico, cioè che venga pronunciata attraverso un voto o che con un atto di orgoglio Berlusconi decida di dimettersi autonomamente, credo che questa sia la soluzione migliore. Chiede l'affidamento ai servizi sociali e a quel punto può ottenere tranquillamente dal giudice la possibilità di continuare a fare attività politica nell'ambito del suo gruppo. Ma non credo che sia la cosa che più lo preoccupi, la possibilità di non... tanto ho capito, che, ma non c'è possibilità. Posso essere d'accordo con lei, però sa, forse quella è la strada obbligata a imboccare, ma... come dire, come dice oggi Michele Santoro in un'intervista al Corriere della Sera, essendo un combattente cerca in tutti i modi di scamparla, ecco, quella via che sembra segnata, come dice lei. Intanto la ringrazio però, Daniele, per il suo contributo. Vorrei salutare, ci ha raggiunto il senatore Nicola Morra, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Buongiorno Morra. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire, io terrei tra un attimo, dopo un minuto, dopo il traffico, la questione del voto palese, cioè quando si arriverà al voto in aula. Veniamo invece adesso, cioè cosa succede in giunta? Voi quanti membri avete? E immagino decideranno oggi per la decadenza di Berlusconi nel primo voto. Bene, noi abbiamo 4 membri nella giunta e problemi ce l'hanno gli altri. Noi da sempre abbiamo espresso le nostre determinazioni, un qualunque cittadino italiano con sentenza passata in giudicato deve prendere atto appunto che la giustizia in Italia è una cosa seria, almeno questo è il nostro messaggio, il nostro proposito, per cui insomma non ci dovrebbe neanche essere da commentare. Non ci dovrebbe essere da commentare, il voto sarà questo. Allora, tra un minuto, dopo le informazioni sul traffico, vorrei approfondire con lei questa vicenda del voto palese o segreto, perché il regolamento attualmente al Senato parla chiaro, se 20 senatori lo chiedono su queste vicende si esprime in voto segreto. Voi dite il voto deve essere palese, vorrei capire come puntate a che sia così. Tra un attimo, ecco il capogruppo Nicola Morra al Movimento 5 Stelle. Eccoci qui. Allora, senatore Morra, poco fa a questi microfoni il senatore Buemi della Giunta, fa parte, eletto nel PD, ora fa parte di PSI Autonomia, ha detto sarebbe assolutamente sbagliato modificare il regolamento in corsa, perché la partita è già iniziata, quindi sarebbe un cambio di regolamento fatto contra persona, ma diciamo così. Perché voi volete cambiare il regolamento? Perché noi pensiamo che nella politica italiana debba tornare a regnare il principio della trasparenza. noi ricordiamo a tutti e dunque anche al senatore Boemi che abbiamo chiesto al senatore Grasso di convocare la giunta per le ineleggibilità e le incompatibilità subito, e cioè a marzo. Poi, per volontà certamente non nostra, bensì del Presidente dell'Aula Grasso, la giunta è stata fatta partire con notevole ritardo. Se il Parlamento lavora male è anche, giusto sottolinearlo, per volontà di chi potrebbe farlo lavorare meglio. E noi abbiamo chiesto e chiederemo anche, per esempio, perché appunto non è assolutamente una persecutio ad persona, ma quella che noi intendiamo, noi chiederemo anche che per esempio possano essere sanzionati degli altri colleghi, dei parlamentari che all'onore della cronaca sono chiamati pianisti, perché anche loro approfittano della mancanza di trasparenza per votare per altri. Però senatore, la questione del regolamento, cioè il regolamento parla chiaro, attualmente 20 senatori lo chiedono e il voto è segreto. Sì, perché in passato si accettava che in Parlamento potesse esserci la logica ricattatoria, delle pressioni, delle minacce. Noi reputiamo che al contrario, essendo noi degli eletti, si debba dar conto tutti ai nostri elettori delle scelte che facciamo. Guardi che per qualcuno, più lineare, più solare di questa. Per qualcuno il principio è proprio il contrario, cioè che sulle questioni di coscienza, per evitare che uno venga ricattato, un senatore che non ha vincolo di mandato, deve essere libero in coscienza di poter votare. È una questione di coscienza. Noi non siamo la giunta, non è un quarto grado di giudizio. La giunta deve ratificare, la giunta deve prendere atto. E io ricordo che il senatore Schifani ha detto proprio a me che non riusciva a comprendere questo accanimento, già che in passato la giunta in altre legislature si riuniva una, due volte al massimo a settimana, con tempi molto molto ridotti, per cui sembra che ci sia un accanimento nei confronti del senatore Berlusconi. Non è affatto così. Io penso che gli italiani dal lunedì mattina fino al venerdì alle 18 lavorano, e alcuni anche il sabato mattina, e non vedo perché la giunta non possa lavorare con tempi celeri, con tempi adeguati, perché penso che far giustizia sia proprio di una società civile. Ma voi confidate di cambiare il regolamento da qui a quando si voterà, non so, metà ottobre, più o meno i tempi sono quelli, cioè non ci sono i tempi, o come pensate di fare? No, è una questione semplicemente di volontà politica, perché le norme, se si vuole, si fanno in tempi brevissimi. Io ricordo che l'Aula non soltanto ha già approvato una modifica del regolamento, ma in altri casi ha approvato anche leggi nel giro di pochissimi giorni, per cui è una questione di numeri. Noi i nostri numeri li abbiamo messi a disposizione, da soli non bastano. Questa è una sfida, una provocazione che lanciamo alle altre forze politiche, che a parole hanno detto di assecondare questa nostra proposta, per cui alle parole bisogna far seguire i fatti. Infatti, intanto, se si voterà segretamente, come secondo me poi andrà a finire, non ci sarà tempo, voi che fate? Alzerete anche voi il ditino, mostrerete il dito con cui si vota, vi fate fotografare? Le posso dire anche questo, francamente io mi vergogno a dover pensare di organizzare per i miei una cosa così meschina, così strumentale. Noi da sempre siamo stati netti, noi con i nostri voti in aula, con i nostri interventi, con le nostre azioni pubbliche abbiamo sempre fatto capire che cosa avessimo intenzione di fare. Sono altri che hanno l'uso, hanno la pratica del voto doppio, del voto ipocrita, per cui si dice A e poi si fa beta. Io ricordo che proprio chi ci accusa di poter tramar contro, il PD in particolare, ad aprile mi pare che abbia impallinato il 101 franchi di tiratore, però sa cosa ha suggerito ieri Mario Adinolfi, che avevo qui a questi microfoni? Ha detto: il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare una cosa politicamente, dovrebbe invece votare nel segreto dell'urna a favore di Berlusconi, quindi contro la decadenza, in modo che così succede il pandemonio, dopo mezz'ora crolla tutto e vanno e sfruttano questo gioco politico per prendere il 70%. Perché queste sono logiche che noi proprio rigettiamo. Noi la dobbiamo smettere con questo machiavellismo per cui dico una cosa e faccio l'esatto contrario. Noi dobbiamo far coincidere quello che facciamo con quello che diciamo. Se vogliamo cambiare il paese, se vogliamo creare una rivoluzione culturale, tutte queste mentalità non possono ancora oggi essere titolate a parlare. Noi dobbiamo andare oltre, noi dobbiamo restituire il paese alla verità. Soltanto restituendo alla verità si può far giustizia, altrimenti diventeremo come gli altri. Certo, però mi scusi, se il voto è segreto e lei dice mi vergogno bisogna organizzare delle gazzarre o comunque delle robe, il ditino, le foto, ci fossero i franchi tiratori, chi è che può dimostrare che non siano anche tra il Movimento 5 Stelle? Non è che siete puri, ma a priori. Scientificamente . Nessuno, scientificamente certo. Nessuno, anche perché no, ma io ho sentito ad esempio l'ipotesi di Miguel Gotorno far votare con il solo indice. Appunto, io ho pensato sì. Per esempio molte senatrici che avendo mani piccole avrebbero difficoltà. Allora che facciamo? Facciamo mancare i voti di queste, andiamo a votare con lo stecchino, ci compriamo un... C'è la pallina di carta un anche. Un ghiacciolo, sì, ma prendiamo anche i cellulari e ci fotografiamo. Insomma, io penso che appunto per questo motivo la cosa più semplice sarebbe far votare palesemente. Questa se è la vostra battaglia. Se Miguel Gotor pensa a questo, perché non supera il problema facendo votare il suo gruppo affinché il regolamento del Senato non venga modificato? E quindi lei... che loro hanno detto che sono a favore, fra l'altro. Lei fa questa sfida. A favore, l'UDC a favore, il PD a favore, allora si voti. Sì, però vi dovrete confrontare con col rischio, secondo voi, di dover votare il voto segreto e col rischio di essere identificati come franchi tiratori. Questo qualcosa dovrete escogitare per dimostrare che voi voterete tutti per la decadenza. Ascolti, gli italiani non sono però del tutto privi di memoria, gli italiani non sono sciocchi, si sa chi da sempre chiede che le cose vengano fatte in un modo e chi invece, ricordo per esempio lo scudo fiscale, in qualche modo con comportamenti che non sono sempre lineari, fa in modo che certe cose passino. Noi siamo là, siamo a disposizione per una battaglia che riteniamo essere fondamentale nell'ottica di un recupero di giustizia e di dignità. Il nostro paese deve tornare ad essere fiero della sua giustizia, costi quel che costi. Va bene, io intanto la ringrazio, staremo a vedere questa telenovela vicenda Berlusconi come finisce. La ringrazio per essere stato con noi, il senatore Nicola Morra, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Vi ricordo che tutto è riascoltabile sul sito radio24.it e ringraziamenti vanno in chiusura come al solito a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè sempre lì in regia con i suoi bombardini. E che dire, seguiteci anche se volete su Twitter, io ci sono come Alino Milan, poi c'è la trasmissione 24 mattino, siamo così anche su Facebook 24 mattino, e che dire, vi lasciamo a domani alle 6.30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.